Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Le manifestazioni di piazza indette in Grecia per la giornata di martedì 6 novembre ad Atene delle principali città del paese in segno di protesta contro le misure di austerità volute dalla Troika. Le reazioni dei mercati europei alla rielezione di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti d'America, con un confronto fra la politica monetaria degli Stati Uniti e quella dell'Unione Europea. Il divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica in Italia e la lettera di richiamo dell'Unione Europea, che ha fatto notare come il limite fissato nel il paese sia troppo severo, al punto di rendere vietata anche la circolazione di beni conformi agli standard europei per gli imballaggi. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Si sono concluse senza alcun incidente le manifestazioni di piazza indette per la giornata di martedì 6 novembre ad Atene, nelle principali città della Grecia, in segno di protesta contro le misure di austerità volute dalla Troika, Unione Europea, Fondo Monetario e Banca Centrale Europea. Secondo l'emittente privata Sky TV, l'affluenza di partecipanti alle manifestazioni è stata di molto inferiore alle analoghe dimostrazioni di piazza convocate negli ultimi mesi. Gli organizzatori delle manifestazioni da parte loro hanno addossato la responsabilità della scarsa risposta popolare all'azienda dei trasporti pubblici che, a differenza di quanto fatto in occasione dei precedenti scioperi, non ha lasciato in servizio autobus e tram appunto per consentire alla gente di recarsi sul luogo del raduno e poi tornare a casa. Prosegue frattanto in Commissione Finanze del Parlamento il dibattito sul disegno di legge che prevede una lunga serie di misure di austerità, con tagli di bilancio per 13 miliardi e mezzo per il biennio 2013-2014 richieste dai creditori internazionali in cambio della nuova tranche di aiuti per 31 miliardi e mezzo. Nella serata di martedì, Sebastiano Barisone ne ha parlato con Dimitri Deglialones, corrispondente della ART, la RAI greca. Oggi c'era pochissima gente per strada perché non hanno pensato i grandi sindacalisti greci che, inducendo lo sciopero anche ai mezzi di trasporto, la gente non aveva difficoltà a spostarsi da casa e andare alle manifestazioni. E questo è il motivo vero. La verità è che la gente è arrabbiatissima e si vede si vedrà dai risultati della votazione che sarà in Parlamento, si attende per domani a mezzanotte. Ma oggi la notizia è appunto che la Merck Serono, l'industria farmaceutica, non fornirà più il medicinale l'Erbitux, quello che serve per i malati di cancro. Se uno se lo compra da solo senza convenzioni sono quasi 4.000 euro al mese, si arriva alla spesa. No, dico, per cui, ma lì il governo è la sanità greca che non sta pagando, giusto, i fornitori? Sì, la sanità greca che non sta pagando è lo Stato che non sta pagando il sistema sanitario nazionale, cioè tutta una catena di inadempienti. Sì. E questa è stata anche la settimana della rielezione di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Una notizia che sicuramente influenzerà le scelte economiche future dell'Unione e l'andamento dei mercati globali. Nella giornata di mercoledì 7 novembre, dopo una partenza in territorio positivo, le borse europee hanno poi voltato bruscamente in negativo. In particolare, quali saranno le ripercussioni a Piazza Affari, la borsa italiana, dove molte società investono negli Stati Uniti? L'abbiamo chiesto ad Enrico Vaccari, gestore di Consult Invest SGR. È un rapporto legato all'export che verso gli Stati Uniti è sempre stato molto forte. Il fatto che il cambio tra l'altro favorisca in un certo senso le esportazioni in questo momento ci può aiutare soprattutto per i settori che saranno probabilmente quelli favoriti dall'amministrazione Obama, che sono i settori legati alla green economy, dall'innovazione tecnologica, all'immobiliare residenziale, della sanità per quella sua famosa riforma che ha fatto sul Medicare. E penso che tra l'altro le condizioni principali di sostegno ai consumi che stanno arrivando dalla politica quantitativa della Fed continueranno ancora e quindi favoriranno secondo me i consumi negli Stati Uniti, sia per le imprese italiane che esportano sia per le imprese italiane che lì hanno delle catene produttive come per esempio la Fiat con la Chrysler. Alla luce della riconferma di Obama alla Casa Bianca, si prevede che le politiche monetarie della Federal Reserve proseguiranno sulla linea degli ultimi 4 anni. Ma come si potranno differenziare da quelle della Banca Centrale Europea? Sentiamo su questo Emilio Franco, responsabile investimenti e vice direttore generale di Ubipra America SGR. L'elezione di Obama, proprio per la ragione che rende più probabile non tanto la conferma di Bernanke, che avrebbe dichiarato di voler diciamo terminare la sua esperienza alla Fed dal 1 gennaio del 2014, però rende più probabile la continuazione di una politica monetaria estremamente accomodante e non convenzionale, che passa quindi per acquisti di titoli di Stato, non solo di mortgage-backed securities, titoli, obbligazioni legate al mercato delle case, come l'ultima ondata di easing quantitative, come dire questa conferma di questa politica anche per i prossimi anni è sicuramente un elemento di supporto per il Treasury. Quindi non a caso, per esempio, già stamattina il future sul Treasury rallava, proprio perché la lettura è conferma di Obama pro Bernanke, almeno in termini di conferma di una politica estremamente accomodante. Leggevo che praticamente nell'ultimo sondaggio sui 21 primary dealer sui treasury americani c'è il consensus addirittura del 100% che nei prossimi 3 mesi la Fed estenda l'easing quantitativo 3 anche all'acquisto di treasury. Quindi questo è sicuramente di supporto. Questo non vorrà dire che i rendimenti nominali andranno molto sotto i rendimenti attuali, però sicuramente che c'è grande supporto. A differenza di quello che succede nell'area euro, la Banca Centrale Americana vuole mantenere i tassi reali negativi ed estremamente bassi per consentire l'aggiustamento fiscale. Continua a far discutere il divieto introdotto dal 1 gennaio del 2011 che ha bandito in Italia il commercio degli shopper, i sacchetti di plastica usa e getta tanto utilizzati fino a quel momento in negozi e supermercati. E questa volta ad entrare in scena l'Unione Europea, che ha fatto notare con una lettera di richiamo come il limite fissato nel bel paese sia troppo severo, al punto di rendere vietata anche la circolazione di beni conformi agli standard europei per gli imballaggi. Nel frattempo le abitudini dei cittadini sono cambiate. C'è chi non rinuncia all'usa e getta e utilizza i nuovi shopper biodegradabili e chi si ricorda di portare con sé una sporta riutilizzabile. Sentiamo Silvia Ricci, ideatrice e responsabile della campagna Porta la Sporta. Sulla carta loro hanno ragione, perché un imballaggio, per essere diciamo regolamentare, deve rispondere a determinati requisiti che sono la riciclabilità, la riusabilità, a cui il sacchetto di plastica diciamo assolve. Non esiste la richiesta che il sacchetto sia biodegradabile e compostabile, quindi sulla carta hanno ragione. Non è una questione facile da risolvere, perché in alcuni paesi tipo la Germania c'è stata una naturale educazione dei cittadini, che soprattutto nei negozi e ai mercati usano la borsa molto più di quanto non lo facciamo noi. In realtà la soluzione che forse potrebbe risolvere la questione alla radice è l'esperienza dell'Irlanda, che nel 2007 ha messo una sorta di tassa per cui il sacchetto di plastica costa oltre i 22 centesimi e questo ha fatto sì che comunque il consumo di sacchetti crollasse. Adesso assistiamo diciamo a questa battaglia, chiamiamola così, tra l'associazione che rappresenta le aziende che producono bioplastica e l'Asso Ecoplast, che rappresenta le aziende che producono plastica, difendono il proprio prodotto. Anche perché non è che possono riconvertire anche i loro processi produttivi da un giorno ad un altro. Io credo che tutelino anche un po' questo. Ricci, che cosa ne pensa? Non credo che queste grandi aziende non abbiano a cuore le problematiche ambientali. Probabilmente con qualche costo in più. Il punto è, e questo anche lo propongono anche da Asso Ecoplast, che forse potremmo guardare un pochino alla soluzione dell'Irlanda. Irlanda, ad esempio. Che cosa ha fatto l'Irlanda? Cioè che l'Irlanda appunto fa pagare sostanzialmente nel settore alimentare il sacchetto usa e getta, quindi questo ha fatto sì che le persone si abituassero velocemente a portare con sé una borsa riutilizzabile, oppure mettono in vendita delle borse riutilizzabili che tutto sommato costano 2 volte tanto un sacchetto usa e getta, quindi questo fa sì che l'abitudine si consolidi. Sostanzialmente anche il fatto di permettere dei sacchetti di plastica, che quelli da 60 micron sono quelli diciamo per le buste con il manico a fagiolo, quelle che troviamo non so nei settori dell'abbigliamento. Questa definizione non l'avevo mai sentita, ecologica fino in fondo, abbiamo anche il manico a fagiolo. Il manico a fagiolo. Invece quelle del settore alimentare addirittura dovrebbero essere superiori ai 200 micron. e quelle del settore non alimentare, quindi al mercato o nei negozi di elettrodomestici, dovrebbe essere 100 micron. Ora, l'idea della legge è che i cittadini andranno ad utilizzare queste buste di plastica come se fossero borse riutilizzabili. E questo non è proprio così scontato se parallelamente, come dire, non si disincentiva oppure non si fa delle campagne di educazione che portano l'attenzione su un altro aspetto, perché il sacchetto usa e getta non è il nemico principale dell'ambiente, cioè ci sono una serie di problematiche che hanno a che vedere con gli impatti della plastica che finisce in mare. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.